Moebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza. Con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Una puntata dedicata alla danza. Ah sì, partiamo con la danza della pioggia. E poi il grande tango. Voi direte che sono diventati matti. C'entra con la scienza. State qui. Sì. Partiamo. Come sempre cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande che voi ci inviate via mail. Vi ricordiamo a tutti moebius@radio24.it per tutti i vostri quesiti di scienza, quelli che possiamo rispondere sicuramente li risponderemo, e diamo la parola a Mauro per il quesito dell'estate. Salve, quello che io sogno sempre in queste giornate torride è di avere una specie di nuvola di fantozzi sopra di me. E quindi mi sono chiesto e vorrei chiedervi se è possibile replicare un temporale in miniatura, un mini temporale. Una domanda stupida o c'è qualcuno che ha già tentato di farlo? E per rispondere a questo quesito, più che comprensibile umanamente e psicologicamente, abbiamo qui con noi questa sera Sandro Fusti. Buonasera Fusti. Buonasera. Lei è dirigente di ricerca presso l'Istituto Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa è la domanda, non ci dica che avete un guardaroba con gonnelline di paglia, quei gessetti per fare i bianchi. La danza della pioggia. Pioggia, qualche bastone ricurvo e poi campanellini nei piedi, ai piedi, per sempre. Beh, effettivamente, come dicevate, è un'aspirazione questa che risale agli obori dell'umanità, o di fare piovere o di non fare piovere, anche di farla smettere. Anche questo problema, quindi una volta lo risolvevano con le danze sciamaniche, oppure per chi ci crede con le processioni. Voi del CNR come la realizzate invece? Dunque, va detto che dal punto di vista scientifico è dall'inizio degli anni 50 che ci sono progetti per fare piovere in aree aride, per non fare piovere invece in zone che appunto ne hanno anche troppa di pioggia. Diciamo che non c'è ancora un vero e proprio consenso scientifico su queste tecniche. Anche se sono stati condotti diversi esperimenti, per esempio sia in Sudafrica che in Australia, nel deserto del Negev in Israele, sono stati fatti tentativi appunto per fare piovere. Ma con che cosa? Cos'è che come fa? Dunque, le nubi vengono inseminate con dei sali che possono appunto favorire la formazione delle precipitazioni. Ma quindi attraverso degli aeroplani, dei velivoli, cioè. Sì, o certo, dei razzi, certo. Cioè sparate dei anche lanci di razzi che appunto esplodono e mettono in circolazione questi tali. Sì. Bisogna però dire che le nuvole sono dei meccanismi molto complessi, per cui bisogna che questi sali giungano nel punto esatto della nube per poter fare avvenire. Ah, cioè non basta metterglieli dentro, cioè la nuve ha una sua geometria, diciamo. Soprattutto diciamo non è mica fissa. Ha un suo funzionamento interno. Ah. E poi dopo c'è anche il fatto che non tutti i tipi di nuvola sono atte alla pioggia, certamente. Cioè quelle che normalmente vediamo, che vengono chiamati appunto cumuli del bel tempo, sono nubi che contengono goccioline talmente piccole che non saranno mai atte a far venire giù un acquazzone, ma neanche una pioggerellina alla Fantozzi. Anche nel caso rilasciassero delle goccioline, queste evaporano molto, molto rapidamente. A livello globale, quello che possiamo dire è che benché la Terra sia coperta per il 60% di nubi, in ogni momento, solo circa il 10% di queste nubi dà luogo a una precipitazione. Quando vediamo per esempio quelle belle nuvole bianche in cielo, in realtà queste acqua non ne tirerebbero fuori. Sì, sono nubi basse con un contenuto d'acqua molto, molto basso, e qualsiasi cosa si faccia, quelle non danno luogo a pioggia in ogni caso. E la ricerca ha fatto qualcosa anche, ad esempio, per interrompere un periodo piuttosto piovoso in zone molto, appunto, piovose, oppure per far precipitazioni anche di altro tipo, non so, per dire magari in montagna, neve, così. Facciamo uno dei casi più eclatanti degli ultimi anni, quando ci sono state le Olimpiadi a Pechino, furono inseminate le nubi per evitare la pioggia. Ora, la pioggia non c'è stata effettivamente, ma noi non sappiamo se non avendo fatto l'inseminazione. Ah, ok, non c'è una prova. Ci sono prove. Cosa avete inseminato? Al contrario? Cioè, cosa si fa? Sono delle inseminazioni fatte in altri punti della nuvola. Cioè, non c'è chiaro. Dunque, sempre con sali? Sempre con sali, oppure si possono utilizzare anche dei gas. Vengono immesse queste particelle nelle nubi alte, nubi che raggiungono i vari chilometri di altezza, che sono quelle che appunto possono dare luogo alla precipitazione. Aggiungendo questi sali si favorisce una precipitazione molto più lieve che non raggiunge terra. Un esempio per stare nel nostro territorio, ci sono stati vari tentativi, ancora oggi molti agricoltori nella pianura padana nel periodo fine agosto inizio settembre utilizzano questi razzi che vengono sparati per evitare la grandine, quindi non per non fare piovere, ma perché la pioggia sia rimanga una pioggia in forma liquida, insomma, e non una grandine che danneggia i raccolti. Scusi, lì forse si tratta, allora, non so, di scaldare la nuvola, perché No, questi sali, queste particelle interagiscono chimicamente. No, favoriscono proprio la formazione di goccioline più piccole, quindi goccioline che non raggiungono quei diametri che formano appunto la grandine. I chicchi di grandine. Cioè il chicco di grandine, lei ci sta spiegando, per formarsi è un aggregato di acqua, perché, quindi di gocce. Se io riesco a tenerle più piccole, non c'è massa a sufficienza perché diventi grandi. Sì, perché la precipitazione alle medie latitudini, per esempio, in cui ci troviamo noi, inizia sempre con la formazione di particelle di ghiaccio, quindi dobbiamo trovarci a delle altezze superiori ai 5-6 km, sì, dove la temperatura è sufficientemente bassa perché si formino queste particelle di ghiaccio che poi cadendo catturano altre goccioline e quindi si possono formare in condizioni particolari grossi aggregati di ghiaccio che sono appunto la grandine. Senta, un'ultima domanda però, ma toccare il clima, anche se appunto localmente con queste cose, può essere pericoloso oppure secondo voi che fate ricerca in questo campo si riuscirebbe comunque a controllare, diciamo, l'effetto locale senza creare? Perché qui siamo un po' nell'ordine del complotto del controllo del clima, cioè c'è tutto un dibattito abbastanza fervente. Sì, c'è un grosso dibattito sul controllo del clima. In questo caso stiamo parlando di tecniche che innanzitutto, ripeto, non sono ancora pienamente validate e poi ad una scala molto ridotta, piccola, ecco. Quindi sono in fase di ricerca, diciamo, ancora. Sì, anche se ci sono, bisogna dire che ci sono in vari paesi delle attività commerciali che fanno questo servizio, ma occorre innanzitutto la nube giusta, cioè la nube che abbia effettivamente una possibilità di creare precipitazione. Poi occorrono tutta un'altra serie di considerazioni e, come dicevo prima, parlando dell'esempio delle Olimpiadi di Pechino, spesse volte non c'è la certezza se non è piovuto magari o è piovuto perché è stata fatta questa operazione o se non sarebbe piovuto comunque. Va bene. Quindi c'è ancora questa, si va ancora un po' per in parte tecniche che si possono usare, in parte insomma c'è molta incertezza. Sì, ecco. Sì, quindi direi che affidarsi alla processione, al santo, sì, o alla danza sciamanica, sì, è ancora l'attività prediletta. Il modo migliore, appunto. Credo di aver letto in uno dei testi di De Martino, che era un grande antropologo italiano, che in Puglia, se non sbaglio, nel secolo scorso, o addirittura magari nel 700, tiravano fuori il santo protettore del paese quando proprio non pioveva mai, lo mettevano in piazza e gli dicevano: ecco, prenditi sto caldo e vediamo se non fai piovere. E dopo non si sa, però. Esatto. Grazie Fusti, grazie, davvero. Fusti. Arrivederci. Buona ricerca. Arrivederci, buonasera. Abbiamo parlato di meteorologia, però adesso abbiamo le previsioni sul traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, immagina di essere in una milonga argentina. Non abbiamo mai parlato di tango. Con tutti questi ballerini. Fantastico. Che ruotano in totale sincronia e armonia e perfezione. Ecco, però restiamo una trasmissione di scienza e non un improbabile tentativo di insegnare il tango via radio. No, infatti. Ma secondo te, questa sincronia perfetta tra uomo e donna nel tango, così come ovviamente in altri balli, ma il tango è veramente la sincronia per eccellenza. Secondo te, com'è possibile che non si pestino mai i piedi? Non solo, ma anche con le ginocchia. Si passano vicinissimi, quindi dovrebbero avere sempre ginocchia, cosce piene di lividi. Massacrate, gomitate anche. È presente quando girano, perché tengono certo sempre il braccio molto alto, potrebbero certo accecarsi. Eppure hanno sempre questa armonia decisamente perfetta. Anzi, è lì il tango. Certo. E quindi, secondo te, la scienza non si è interrogata su questa perfezione, questo coordinamento, che deriva probabilmente dal nostro cervello? Allora, proviamo a chiederlo a chi ha veramente svolto questa ricerca, alla Sapienza di Roma. Ci colleghiamo con Salvatore Maria Agliotti. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Buonasera. Senta, ma com'è che è venuto in mente a lei? Ha visto il tango e ha detto: qui ci devo capire che cosa c'è dentro il cervello. Beh, insomma, in realtà nasce da una quantità di studi essere arrivati qui, che sono legati a un progetto europeo che si chiama Tango, per l'appunto. Ecco. E che, insomma, detto così suona molto bene, ma prima di arrivarci c'è tanto lavoro, diciamo, noioso di tutti i giorni nel laboratorio. Ecco. E anche quello che abbiamo fatto noi, uno dice tutto qui, perché in pratica abbiamo dovuto semplificare, ecco. Sì, ma adesso non si butti giù, insomma, avete fatto un lavoro importante e adesso appunto le chiediamo di raccontarci. Intanto, che cosa avete scoperto? Cioè, che questo coordinamento in qualche modo è esattamente posizionato in un'area del cervello ben precisa. Sì, come si può, diciamo, semplificare in casi del genere? Cioè, c'è un'area che è più importante di altre. Il cervello è sempre fatto da una rete, sono molte aree che si parlano nel tempo, ma ci sono delle aree che hanno una funzione specifica per qualcosa, o meglio, più specifica di altre. Ecco, in questa ricerca noi abbiamo individuato, è il primo studio che individua un'area che può avere a che fare con questi processi, che non sono i processi imitativi su cui si è tanto parlato in questi anni, ma sono i processi, diciamo, complementari nell'azione, che sono quelli fondamentali, diciamo, nel tango, ma in tutte le condizioni, le azioni congiunte in cui c'è bisogno non di fare la stessa cosa, di imitare uno quello che fa l'altro, ma anzi esattamente l'opposto. Cioè, è come dire: se io vado in giù, tu devi andare in su, altrimenti le ginocchia di cui parlavate prima si scontrano, certo. E questa sorta di sincronia perfetta che non nasce dall'imitazione. Cioè, sono stati spesi i classici fiumi di inchiostro sul tema dei neuroni specchio, no? Sì. Ci si arriva. Ma quella, se ci si pensa, è il primo passo, è una condizione raramente che si verifica raramente in natura, nel senso, almeno nella specie umana, non c'è uno che agisce e l'altro che passivamente guarda. Gli esseri umani, in realtà, quando interagiscono, reagiscono l'uno all'altro. Quindi lo stadio successivo è quello in cui noi interagiamo e non imitiamo. No. Certo. No, è più facile imitare. Sappiamo che i bambini a poche ore imitano. Cominciano. Ma interagire ci serve molto di più. Ma senta, noi qui a Möbius raccontiamo spesso come viene raggiunto il risultato, qual è il teatro dell'esperimento. E in, questo, sì, in questa ricerca qua siamo più che mai curiosi. Ecco, per questo vi dicevo prima che non era per buttarsi giù, ma per dire che la scienza quando va in laboratorio deve semplificare la realtà. Poi la speranza è di arrivarci. Noi abbiamo cominciato con cose semplici e poi abbiamo studiato gli atleti di basket in passato in compiti di osservazione, tanto per dire. Quindi noi la speranza l'abbiamo e poi vogliamo arrivare lì all'ecologia massima. Però data la complessità di questi fenomeni noi abbiamo cominciato studi creando un compito artificiale in laboratorio in una serie di studi che abbiamo sviluppato in questi anni, questo in realtà è l'ultimo della serie, in cui abbiamo cominciato a chiedere a due esseri umani di afferrare, di toccare degli oggetti. Ognuno aveva il suo oggetto di fronte e dovevano toccarli, ma non a caso, cioè imparando ad essere il più sincroni possibile. D'accordo? Quindi il primo stadio di questo compito è stato due esseri umani che devono toccare degli oggetti. Ma lo stesso oggetto, due con lo stesso oggetto no, o due oggetti diversi? Ognuno il suo oggetto davanti, due oggetti identici, però ognuno aveva il suo. Quindi sono due individui messi ai lati di un tavolo che vanno a toccare, quando ricevono dei segnali di inizio, una parte di questo oggetto che può essere, a seconda delle condizioni, c'è cioè una condizione in cui dice, hanno l'istruzione di toccare ognuno il suo oggetto, ma ognuno nella parte alta. Okay. Quindi tutte e due fanno la stessa cosa. Quindi in un certo senso si stanno imitando. Però c'è un'altra condizione in cui l'istruzione per uno è vai su alla parte alta, per l'altro vai alla parte giù, d'accordo? Okay. Quindi lì devono fare una cosa che è complementare, parzialmente complementare, ma devono cercare di essere sincroni. Quindi questo è l'indice di dire tango, cioè che devono avere... Si devono osservare, quindi. Si devono osservare. E c'è una certa ritmica che gli chiedete. C'è una certa ritmica che chiediamo, nel senso che ci sono degli intervalli, se loro sono già molto bravi, il compito diventa più difficile. D'accordo? Quindi la tolleranza, quella che chiamiamo sincronicità, diventa minore, più diventano bravi, d'accordo? Invece se non sono tanto bravi, noi tolleriamo anche una asincronia più grande. Okay. Okay. Questo è il compito di base. Okay. Per esempio, in un compito così noi abbiamo studiato che se noi facciamo interagire un bianco con un nero, per esempio, e un soggetto è implicitamente razzista, questo si riflette nel movimento che loro fanno a un livello completamente incosciente. Ma tanto implicitamente razzista? Cioè voi avete selezionato delle persone che si dichiaravano razziste? No, quello è esplicitamente razzista, ma esistono dei test psicologici che dimostrano che ahimè, noi su questo abbiamo già pubblicato molti lavori. Sì, okay. Ecco, allora quindi c'è una dissociazione tra quello che io dico, ma non perché mento, perché sono genuinamente convinto, e quello che invece poi la storia che rivela il mio comportamento. C'è un inconscio che si fa emerge. E quindi in quel caso non si coordinavano. In quel caso, pur avendo la spinta a coordinarsi, perché se diventano bravi vincono dei soldi, il pregiudizio influenzava questo comportamento. Quindi questo è l'inizio della storia. La storia è cominciata con due esseri umani. Poi eravamo interessati a capire quali sono i substrati cerebrali di questa capacità di coordinarsi con l'altro tramite azioni non imitative, vale a dire complementari. E siccome in questa fase avere due esseri umani e interferire con la loro attività cerebrale sarebbe stato complesso, abbiamo cominciato con un essere umano con la cui attività cerebrale noi siamo capaci di interferire abbastanza facilmente e un avatar, cioè un personaggio virtuale che fa la stessa cosa, diciamo che fa lo stesso compito, non la stessa cosa dell'essere umano. Quindi davanti a un monitor, davanti oltre a un che monitor, appunto davanti all'oggetto. Okay. Esattamente, davanti a un monitor, quindi io ho davanti a me, io essere umano, un oggetto e in più ho uno schermo di un computer e vedo un avatar. radar che fa un movimento verso un oggetto simile. E lì la sincronizzazione come andava? Cioè... ci si sincronizza anche con un avatar. Ah, okay. Cioè, si impara a fare questo, peraltro è un avatar che ha la cinematica, cioè i movimenti di questo avatar sono dei movimenti umani trasferiti su di lui, quindi somiglia proprio al movimento di un essere umano. Sì, non è che ha dei rallentamenti o sembra artificiale. A volte fa dei trucchi, fa dei trucchi, è istruito ad andare, per esempio, a finta di andare su e poi va giù, proprio per vedere se io, essere umano, mi coordino con lui, quindi fa delle finte. A questo punto, avendo le indicazioni su cosa succede in modo naturale in questo compito, abbiamo utilizzato una metodica di stimolazione cerebrale non invasiva, particolare tipo di stimolazione magnetica transcranica con funzione inibitoria, che ci consente, ci ha consentito di inibire temporaneamente delle aree cerebrali. Ah, ok, mentre il soggetto faceva queste azioni, gli esperimenti. Nel senso che noi inibiamo prima quell'area cerebrale, okay. E sappiamo da questa letteratura, da questi studi, che se io uso questa metodica per un tot di secondi, poi ho una inibizione dell'area cerebrale su cui ho posizionato lo stimolatore inibente, sì, per un certo numero di minuti. Quindi noi inibiamo queste aree, abbiamo una finestra in cui l'area inibita funziona di meno e in quella finestra facciamo fare l'interazione. Il test. E quindi per esclusione in qualche modo avete selezionato quella che dà la possibilità appunto di coordinarsi il più possibile. È così un po'? Esattamente questo. Noi abbiamo simulato un'area che pensavamo non coinvolta in questo compito, ma un'area che sapevamo, sia da studi nostri che di altri, essere coinvolta nella imitazione, per esempio questi, che è un'area, l'area di dove sono stati trovati tanti neuroni specchio, che è la corteccia premotoria ventrale. Quindi quest'area, che è conosciuta per essere importante quando si imitano gli altri, non è rilevante quando si fanno dei compiti complementari. Invece c'è un'altra area del cervello, della corteccia parietale, che se veniva inibita interferiva in modo specifico fortemente con la capacità di fare i movimenti complementari con l'avatar. Ecco. I movimenti imitativi non erano toccati, ma sì, i movimenti complementari erano molto alterati. Senta Liotti, allora praticamente adesso lei anche ha spiegato una metodologia della ricerca, cioè si riduce all'essenziale il fenomeno, in questo caso il tango diventa un grande esercizio di coordinamento e avete lavorato su questo. Però volevamo chiederle, nel tango, nel ballo, c'è anche una grande capacità di sentire il ritmo, no? Può c'entrare con questa capacità di coordinarsi? Magari è uno sviluppo successivo. C'entra moltissimo, ma è uno sviluppo successivo, sì, anzi molti sviluppi successivi più avanti. Come vi dicevo, la scienza, quella del laboratorio, deve andare proprio a step, certo. Sì, perché probabilmente molti di noi penserebbe che, ma perché non hanno messo un po' di sensori sulle teste, i due crani dei tangheros? Ma lì probabilmente avreste avuto una quantità di dati incomprensibili. Beh, questo è proprio anticipato quello che noi vogliamo fare, per esempio avere due, si chiama elettroencefalogramma doppio, cioè la possibilità di misurare, questo già si può fare, di misurare l'attività di due persone con una cuffia elettroencefalografica e un relativo apparato. Il punto però è di trovare un indice che li metta in sincronia, cioè questi due cervelli non vogliamo sapere solo come ciascuno di essi lavora, ma come lavorano in sintonia quando stanno facendo le cose insieme. Questa tecnica si chiama Hyperscan, questa è una tecnica molto di avanguardia su cui noi pianifichiamo proprio, speriamo. Va bene, allora ci risentiremo. Grazie Liotti, buon lavoro. Grazie anche a voi. Dai, salutiamo così gli ascoltatori, sì, per troppo bello per questa volta, su. Ma ci potrebbero essere altri balli? Ma assolutamente sì, ma ad esempio immaginati il nostro ballo liscio romagnolo, certamente lì c'è un grado di coordinamento mica indifferente. Che è un po' tangato, no? Come certo. Certo, è una forma semplificata del tango. Però scusa, anche il buon vecchio grande rock and roll. Ah, acrobatico, figurati, certamente sì. Va bene, per oggi è tutto. Buona settimana a tutti. A tutti e a tutte, ciao. Ciao.